la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo venerdì 23 di gennaio, come sentite io torno per motivi che vi spiegherò domani insieme a miei compari ai Conti della Belva in diretta dalle 10 alle 12, torno a This is the End. Perché molti forse non hanno capito come la penso, perché io ieri non ho detto come la penso sulla BCE e sulla sua decisione di ieri, perché avevamo un ospite pochissimi minuti, quindi ho messo la carica ieri semplicemente perché è una decisione comunque storica. Poi sulle critiche, le conseguenze, se avrà effetto, su cosa bisogna attendersi davvero in Italia, se cambia qualcosa davvero per le decisioni da prendere qua, che cosa succede dopo il voto greco, eccetera, eccetera. Per tutte queste cose vi rinvio a domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva, perché francamente c'è molto di cui discutere e soprattutto sentire da voi domani mattina, chiamate per dirci come la pensate, cosa avete capito, cosa vi aspettate, davvero la bacchetta magica, ma insomma io ridacchio un po'. Comunque domani punti di vista vi garantisco anche molto diversi, perché ne parleremo a lungo con ospiti che la pensano diversamente da me, da Carlo Alberto, da Mario Seminerio, i compari che vi danno appuntamento per domani mattina alle 10. Oggi invece di che cosa parliamo? Parliamo di una vicenda che rimbalza di nuovo sui giornali nazionali, che in realtà va avanti dal maggio del 2013. E quindi mi interessa capire, oltre che ad approfondire con un ospite che ora vi presento, la vostra opinione su questa vicenda. La vicenda è relativa a una decisione assunta dal Politecnico di Milano di tenere per un certo numero di lauree magistrali, cioè quello superiore, i dottorati, i corsi solo in inglese. Questa discussione va avanti da 2 anni e mezzo con bocciature della delibera assunta dal Politecnico di Milano, ricorsi successivi del Politecnico di Milano, che nel frattempo è andato avanti nell'adottare questo criterio. La domanda che vi faccio è come la pensate voi, poiché adesso questa vicenda arriva addirittura alla Corte Costituzionale e quindi ci sono una serie di domande. Non considerate giusto voi che nella autonomia concessa alle università con la scelta, quella della legge del 2010, si possano assumere decisioni di questo tipo, cioè che ogni singola autonomia o università non sia libera di dedicare una parte della sua alta formazione in corsi solo in inglese? Allora che autonomia è? Pensate che sia più giusto un sistema universitario in cui tutte le università sono uguali? Ve lo chiedo, io penso che sia sbagliato, ma magari molti di voi pensano diversamente. Secondo, c'è davvero un rischio per scelte di questo tipo che l'italiano finisca per essere una minoranza non tutelata, come sembra dalla sentenza del Consiglio di Stato ieri? Pensate davvero questa cosa? Oppure, al contrario, ritenete che sia giusta la tesi di chi dice no, siamo in Italia, solo in italiano? Beh, e allora a questo punto però come li attiriamo gli studenti stranieri talentuosi, che secondo me bisogna mirare ad attirare nel nostro sistema della formazione, e forse non diamo anche migliori armi di formazione agli studenti italiani nel mondo globalizzato, stiamo parlando del Politecnico, per poter da subito svolgere gli insegnamenti e poi la professione in tutto il mondo, a seconda di come uno senta di dover indirizzare la propria poi vocazione professionale dopo? Ecco, tutta questa serie di domande, chiamateci, siate non direttamente interessati alla questione dell'università, oppure siate parte di chi ci lavora o di chi ci ha figli, o se siete studenti, diteci la vostra. Io mi limito a ricordarvi che il va e vieni è una classica fotografia, oltre il merito della questione, di come non funziona l'Italia, perché pensate che la delibera assunta dal Politecnico fu all'inizio bocciata dal TAR nel Lombardia nel 2013, dopodiché contro ricorso del Politecnico e del Ministero dell'Istruzione. Il Ministero dell'Istruzione nel frattempo ha cambiato idea, perché all'inizio aveva dei dubbi, adesso invece ha sposato, dopo poco sposò la posizione del Politecnico, dicendo sì, può farlo, è giusto che lo faccia. All'inizio sembrava avesse invece dei dubbi. A quel punto, dopo il ricorso, però, la questione arriva al Consiglio di Stato, cioè al secondo grado di giudizio amministrativo. Il Consiglio di Stato, eccoci qua, ieri non interviene ma sospende il giudizio e manda la questione alla Corte Costituzionale. Ma nella realtà, nel mandarla alla Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato apre ulteriori interrogativi, perché dice che con ogni probabilità è incostituzionale la stessa legge di autonomia alle università in alcuni aspetti, grazie alla quale l'università del Politecnico ritiene legittimamente di poter assumere una decisione di questo tipo. Quindi la questione non solo va al più alto livello della magistratura, il sindacato di costituzionalità, una vicenda relativa alla libertà e all'autonomia di un'università, ma rischia di diminuire ulteriormente ogni singola decisione che derivi dall'autonomia universitaria. Quindi il paradosso italiano, nel senso che noi siamo bravissimi ad avere dei dubbi quando anche riusciamo a risolvere con un atto normativo una questione ordinamentale, perché tanto c'è sempre qualcuno che dice no. Ecco, e in effetti il Consiglio di Stato ieri apre dei dubbi molto pesanti. Uno è quello che già vi ho citato, e sto finendo, quello sul fatto che l'italiano finisca per essere una minoranza non tutelata, e un altro è ancora più particolare ai miei occhi, che naturalmente probabilmente mi sfugge bene questo criterio di giudizio, perché il Consiglio di Stato dice che adottare l'insegnamento in inglese per alcune materie potrebbe andare bene, ma per altre no, perché, leggo testualmente, non appare manifestamente congruente innanzitutto con l'articolo 3 della Costituzione. Quelle della sera oggi stenta a rispiegare dicendo, in altre parole, si può fare ingegneria delle costruzioni in inglese, ma secondo il Consiglio di Stato, invece, se l'insegnamento fosse storia dell'arte, no, perché in quel caso ci sarebbe un'incongruenza verso l'articolo 3, lì bisogna farlo in italiano. Questa cosa, non chiedetemi di spiegarla, perché a me sfugge del tutto, mi sembra veramente arrampicarsi sui muri. Apposta però, per capire meglio, abbiamo un ospite che insegna appunto al Politecnico di Milano, insegna economia applicata, lo abbiamo chiamato più volte per problemi dei trasporti e così via, che sono una delle sue specializzazioni, e l'ho chiamato anche perché so in partenza che su questa vicenda è un interlocutore che ci dice la sua opinione, ma è un'opinione, cioè, che non sposa partiti contrapposti, se non ho capito male. È con noi il professor Marco Ponti, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Allora, detto tutto questo, cominciamo proprio dalla sua opinione sulla scelta adottata e su tutti questi ricorsi. Chi, secondo lei, chi ha più ragione o meno torto? È quanto complicata, perché ci sono due aspetti che in qualche misura confliggono. Il primo è che fare corsi in inglese è un arricchimento per gli studenti, perché così vengono a disporre di uno strumento che li apre di più al mercato internazionale del lavoro. In secondo luogo ha l'effetto di attrarre, come ha detto, studenti che non parlano italiano nelle nostre università. E questi sono gli aspetti positivi. Però c'è una grossa verità nella differenza delle materie. Mi faccia dire su questo che Milano, proprio grazie a università come il Politecnico e un paio d'altre delle 8 università che ci sono a Milano, Milano ha 18.000 studenti stranieri, il dato però è già vecchio di 2 anni, sono in crescita. Io la considero quella, per esempio, una caratteristica dell'attrattività da potenziare, cioè noi abbiamo una fascia di paesi del mondo che magari o non hanno la possibilità di strapagarsi i corsi nel mondo anglosassone, oppure hanno un interesse specifico a venire a formarsi in Italia, e nelle università di eccellenza come il Politecnico, secondo me dovrebbe essere considerato un obiettivo quello di innalzare l'attrattività nei loro confronti. O sbaglio, secondo lei, professore? Proprio nell'innalzare la questione. Se fa un corso in inglese in fisica teorica o di una materia con un alto contenuto formalizzato scientifico, la lingua diventa quasi irrilevante, perché non è la lingua che trasmette i contenuti, ma elaborazioni formalizzate, diciamo così, formule, se vogliamo dirla, sì, certo, brutalmente. Ma se uno insegna storia dell'architettura, in cui noi abbiamo forti eccellenze, la lingua diventa sostanziale per la qualità dell'insegnamento. Se uno insegna bene in italiano, ma non sa abbastanza inglese, impoverisce il suo corso, in cui le parole sono pietre, cioè il linguaggio con cui i concetti sono espressi è di vitale importanza. Io un minimo ne posso parlare, perché ho insegnato sia in italiano che in inglese. Aspetti, questo, in è, proprio, Italia che fuori questo è proprio il punto che io obiettivamente l'ho dichiarato, non capivo del passaggio della sentenza del Consiglio di Stato di ieri, che però mi pare di capire lei confermi, forse ce l'ho anche può spiegare meglio, cioè per alcune materie lei dice quelle ad alta formalizzazione matematica, insomma stiamo parlando di scienza naturale. Esatto. In genere, allora lì in buona sostanza non solo l'inglese non è un problema, ma quasi ogni lingua è un problema, perché tanto quello che conta è un problema minore, Esatto. E c'è sempre un non si taglia col bianco e nero, è un problema sicuramente minore che in una materia in cui il linguaggio pesa molto, ma allora soprattutto però... se il passaggio all'inglese peggiora la qualità dell'insegnamento. Però questo è un professore, è un altro paio di maniche, lì dipende dal fatto che sia il docente a essere scelto col criterio di essere perfettamente English speaking e che quindi che la sua offerta, per così dire, sia di buon livello. Ma invece volevo che ci spiegasse meglio, perché anche lì non ho ancora capito, perché invece in storia dell'architettura l'italiano a quel punto diventa più pregnante, più rilevante, e quindi è comprensibile che il Consiglio di Stato dica beh, lì c'è una questione anche costituzionale e naturale. Perché in storia dell'architettura l'italiano ha più rilievo piuttosto che in inglese? Ma questo... Allora parliamo delle cose che conosco. In economia ci sono moltissimi concetti sfumati. Sì. C'è una parte formalizzata in economia, per carità, ma ci sono anche moltissimi concetti sfumati. Certo. E far trasmettere le sfumature è proprio quello che distingue un bravo docente da uno che varrebbe la pena di leggere solo sul libro, cioè da un cattivo docente, proprio la capacità di trasmettere le sfumature. In fisica teorica di sfumature ce ne sono molto poche, ma già in economia ce ne sono un'infinità. Non c'è dubbio, però per esempio se mi fa quell'esempio di cui ovviamente al di là dei titoli che non ho universitari, ma sono 30 anni che studio, leggo e approfondisco, però lì l'inglese è proprio la lingua dell'economia e della finanza mondiale, quindi capisco benissimo, però in buona sostanza viva la versione voglio dire americana originale dello Smith, tanto per dire un manuale o altri, piuttosto che le sfumature in italiano. Però ripeto, non voglio dire cose. Lei ci conferma che un problema c'è. Adesso facciamo 60 secondi di strade e poi torniamo invece, perché questo è solo un aspetto della questione, cioè poi quello che riguarda l'autonomia, quanto può essere estesa, e anche qui sentiamo l'opinione di chi poi al Politecnico ci insegna. La versione di Oscar. Eccoci qua, 16:48, stiamo parlando di questa lunga, oramai annosa polemica intorno alla scelta di tenere, sì, interi corsi di laurea magistrali, cioè non solo alcune materie da parte del Politecnico, solo in inglese, e i dottorati, e il batti e ribatti che arriva alla Corte Costituzionale. State mandando, e mi fa molto piacere, perché io penso che il sistema della formazione sia uno dei pilastri della competitività del nostro paese, il capitale umano, un mucchio di sms, anche più degli altri giorni. Ne leggo alcuni prima di tornare al nostro ospite. Per esempio ci dice Luigi: nel 1986-87, anno accademico, scienza dell'informazione alla Statale di Milano, primo anno, il testo di un esame era in inglese, nessuno si lamentava. Ok, era un esame, Luigi, però qui stiamo parlando di un intero corso invece. Dopodiché Paolo invece ci dice: forse per me mettere l'inglese come seconda lingua ufficiale italiana, se vogliamo stare nel mondo. Paolo, secondo me, non ha nemmeno tutti i torti. Il problema, ci dice Gianni, sono i docenti, perché nella mia esperienza e sensazione, dice Gianni, in realtà quelli che hanno una piena padronanza, tanto da poter far cogliere le sfumature nel corso dell'insegnamento, non sono poi una percentuale troppo elevata. Poi c'è chi dice, non dimentichiamoci che però se vogliamo attrarre in Italia per la formazione è anche giusto che a quel punto l'offerta della formazione sia anche in italiano e non solo in inglese. C'è chi ricorda il Rinascimento e così via, sì, ma non siamo nella stessa posizione del mondo del Rinascimento oggi. Poi ancora qualcun altro che si rifà a come Renzi interviene in inglese a Davos e così via, va bene, non stiamo parlando di questo. Io comunque apprezzo, sia pure ho qualche dubbio sull'esito, la buona volontà, ecco, di Renzi in quelle circostanze. Mi fermo qua, ma torniamo a questo punto, prima di aprire i telefoni, perché siete già tre in fila, a sentire anche l'opinione del professor Ponti invece sull'autonomia dell'università. Non c'è il rischio che, poiché questa oramai è la vicenda che va alla Corte, certo, tagliamo le dita all'università invece che fargliela allungare? Certo, sono molto d'accordo. L'autonomia dell'università è una tradizione, secondo me, intoccabile. Le università dovrebbero essere molto autonome, ma nel sistema attuale non è così. Cioè, per esempio, se uno non vuole insegnare in inglese, ma l'università ritiene che quello sia un valore molto molto importante per lei, cambia università e va dove questo obbligo non c'è. Come negli Stati Uniti c'è una grande mobilità tra i docenti che vengono scelti in base alla loro prestigio, alla loro qualità, alla loro bravura e retribuiti in proporzione. In Italia invece la selezione accademica è molto pubblica e molto ingessata, cioè gli docenti sono di fatto pochissimo mobili, come sappiamo, e quindi il discorso diventa molto astratto, quello che da adesso il Politecnico prende solo docenti che parlano un inglese impeccabile, per cui può fare benissimo. Professore, io adesso riduco con una formula: finché sarete funzionari dello Stato, quindi uguali per tutti, e qualcuno farà l'impugnativa come se foste funzionari del pubblico impiego, è ovvio che a quel punto non si può fare. Però la mia idea è che un professore universitario non dovrebbe essere un funzionario del pubblico impiego, cioè tutti uguali. Cioè io farei crescere la quota di finanziamento differenziata per qualità della ricerca sul fondo nazionale, università per università, darei piena facoltà, entro un certo ma limitata forbice di principi, di potersi scegliere docenti con retribuzioni diverse e attirando privati che a quel punto finanziano le cattedre, come nel sistema. Negli Stati Uniti, guardate che funzionano così le università pubbliche, in California la maggioranza dove sono pubbliche, funzionano quelle pubbliche così, mica solo quelle private. Sbaglio? Lei la pensa diversamente, professore? No, no, e su questo siamo molto d'accordo. C'è poi il problema, ma è secondario rispetto a quello che ha detto lei, che condivido largamente, della libertà vera dell'insegnamento, che è un grande valore per l'università. Se i finanziatori privati dell'università hanno la cultura scientifica dei nostri finanziatori privati, buonanotte, non so come dire, c'è una tradizione americana come dire umanesimo del capitalismo americano che non è confrontabile con la nostra. Non c'è dubbio, finanziano veramente la ricerca scientifica, la nostra industria finanzia la roba che deve vendere il mese 21, la ricerca interessata. Allora, il professor Ponti ha così ragione. Pensate a questo dato che è il più sconosciuto: in Germania il 44% del totale degli iscritti all'università frequenta le università professionalizzanti, cioè le università tecniche, che in Italia praticamente non esiste. In Italia sono lo 0,4% del totale a frequentare questa parte ristrettissima di offerta delle istituzioni universitarie professionalizzante, e lì i privati strafinanziano come? E la ricerca interessata la fanno attraverso fondazioni nazionali, per esempio la Fraunhofer, che si occupa di meccanica, ambiente, salute, eccetera eccetera. Lì i privati decidono anche i programmi, ma con il filtro di un comitato scientifico in cui non sono i privati che finanziano a decidere. Qui il professor Ponti invece tocca con un dito una ferita profonda, perché qua anche nel mondo privato delle grandi imprese siamo arretratissimi. Non ci raccontiamo che i difetti sono solo del pubblico, perché non è così per quello che riguarda il sistema della formazione. Allora, sentiamo come la pensano un po' di voi. Cominciamo con Piero da Bari, che mi segnalano, è professore del Politecnico di Bari. Prego, professore. Buonasera. Oscar? Sì, sono qua. Sì. Sono cultore di fotogrammetria architettonica del Politecnico di Bari, sono perfettamente d'accordo con il professor Ponti, però dovremmo iniziare ad andare proprio alla sorgente, cioè nel senso in Italia dovremmo annullare per prima cosa il valore legale del titolo di studio. Una volta annullato il valore legale del titolo di studio, e qui i grandi baroni universitari strizzano gli occhi, non è possibile. Piero, tu la metti ancora sui principi più di principio, e figurati se io non ti seguo, però siamo in minoranza assoluta a pensarla così, dobbiamo saperlo che è così, e quindi io mi muovo anche in un mondo in cui ci si possa aprire a esperienze del mondo pubblico che esistono nel mondo, ma innestandovi quei valori che servono a fare più competitività e più attrattività, perché se voglio essere realista, poi per come la penso io la penso come te. Giorgio da Milano, come la pensa? Sì, buonasera Giannino, volevo portare la mia esperienza, cioè almeno quella di mio figlio, per interposta persona. Adesso al di là di tutti i dettagli giuridici e quelli anche sul valore del titolo di studio della laurea, mio figlio frequenta secondo anno di architettura della laurea a breve, cioè i primi tre anni, e in inglese, proprio al Politecnico a Milano, in un corso per studenti stranieri. E però, cosa pensa suo figlio italiano, e lei come padre di questa vicenda? Ma noi siamo contentissimi, lui all'inizio era un po', diciamo che l'ho spinto io nella scelta, E adesso era... è felice. Adesso sì, è molto contento. Grazie Giorgio, mi dispiace per Alex da Varese, ma oggi siamo brevissimi. Grazie al professor Ponti, continuate con Radio 24 e soprattutto domani su Europa e Pensioni dalle 10 alle 12, Conti della Belva, domani.